Buonasera. Allora, io in quanto lettore di solito ho un problema. Frequento anch'io, più da spettatore, di tanto in tanto, in quanto amante della lettura, appuntamenti di questo tipo, incontri con autori, presentazioni di libri. E in genere mi trovo sempre un po' a disagio quando vedo presentatori che parlano più degli autori. E magari li investono delle loro interpretazioni sul libro, delle loro possibili letture, e magari si indispettiscono anche se l'autore poi non le conferma. Quindi abbiamo pensato di fare tesoro di questa esperienza e di dare subito voce all'autore. Ma non solo. Sarà accompagnato da qualcosa. Olmo. Non è facile essere poveri in un paese ricco. C'è chi dice almeno non si muore di fame. E c'è chi ricorre all'inglese, working poor, come se l'essere working, pensava Contini sulle scale dell'ufficio fallimenti, potesse lavare l'onta del poor. Le facce che incrociava salendo forse non avevano fame, ma erano divorate dalla vergogna. È come uno di quei vermi che ti rodono l'intestino finché qualcuno ti fa capire che sì, puoi diventare povero, ma hai tutto l'interesse a fingere di non esserlo. Si fermò per far passare una coppia di giovani vestiti bene. Stavano litigando, ma smisero subito appena notarono la presenza di un estraneo. Sei povero? Guarda gli altri, quelli che sono working e basta, fa come loro. È sottilissimo il diaframma che separa il precetto esecutivo dalle vacanze a Gerba, la Mercedes in leasing dal pignoramento dell'impianto stereo. Contini si fermò ad ascoltare sull'ultima rampa. Prima di uscire in strada, credendosi al sicuro, i due giovani ricominciarono a litigare. Non è permesso balzare da uno status sociale all'altro. Soltanto nelle fiabe il principe ruzzola fra i mendicanti e la sguattera si infila a corte. Nei paesi civili queste operazioni richiedono documenti, pratiche, verifiche a domicilio. Come sacerdoti aztechi, i funzionari dell'ufficio fallimenti accompagnano le vittime al sacrificio, archiviano i compromessi, le speranze fasulle e infine registrano in triplice copia il tonfo. Ecco. Qui si è già presentato, cioè in questo romanzo ci sono vari personaggi. Ritorna Contini, c'è un killer, c'è una ragazza simpatica, estroversa, diciamo. E uno dei protagonisti però è già apparso qui in questa pagina, è l'ufficio fallimenti a Bellinzona. E allora potremmo iniziare col chiedere ad Andrea, visto che siamo subito entrati in tema, si intitola L'arte del fallimento, appunto, perché si è avvicinato a questo tema. Poi magari ci dice anche la sua esperienza personale dell'ufficio fallimenti. Sì, qualcuno pensa che avendo scritto qualche anno fa come rapinare una banca svizzera e non essendoci riuscito, questo è una sorta di confessione. In realtà è vero che è un romanzo che da tanti anni che avevo in testa, proprio perché mi era capitato di conoscere semplicemente uno che lavorava all'ufficio di esecuzione e fallimenti, ma era un personaggio che magari non ti aspettavi di vedere lì. Era un ragazzo giovane con i capelli ritti in capo, cosparso di tatuaggi e piercing, e si sentiva anche lui come un pesce fuor d'acqua. Diceva: è un lavoro duro, la gente arriva allo sportello, scoppia a piangere, tu devi dirgli verremo a pignorarvi i mobili, devi certificare la loro sconfitta. E mi era rimasta nella mente questo personaggio che con la sua empatia riusciva comunque a essere più vicino agli sconfitti rispetto ai suoi più compassati e burocratici colleghi. Poi per anni non ci pensai più, come succede, e poi decisi con un colpo di testa di darmi una possibilità. Io sono negato per la musica, non ho un grande orecchio, però mi piace molto, mi sono detto perché uno come me non può dire qualcosa anche lui con la musica, e quindi cominciai a prendere lezioni di sassofono. Tuttora ne prendo una a settimana. E per caso io vado a prendere lezioni di sassofono nello stesso edificio in cui un piano più in basso c'è l'ufficio di esecuzione fallimenti. Vedete che si incrociano nella mia... E questo mi fece partire un po' un cortocircuito mentale in cui c'era il ricordo di questo ragazzo, il sassofono, i fallimenti, e mi sono detto, qui sta nascendo una storia che parli non solo della burocrazia dell'ufficio di esecuzione e fallimenti, ma anche proprio di che cosa sia nella nostra vita la sconfitta. Se siamo esseri umani, è perché qualche volta abbiamo fatto i conti con la nostra imperfezione di esseri umani, abbiamo perso, siamo caduti da qualche parte. E è un'esperienza importante ed è in fondo vitale ragionarci. Quando io dico a un certo punto del romanzo che forse il vero fallimento è non fallire mai, ma è impossibile non fallire mai, il vero fallimento è non rendersene conto, lasciare che i propri fallimenti passino, e invece bisogna saper contare le proprie ferite, perché non passano, a volte ci sono ferite che restano, però ti rendono più autentico. Ecco. Abbiamo visto che il vero autore non smette di essere scrittore neanche quando suona il sax o quando scende le scale, e infatti prima, non l'abbiamo detto, ma poi ci ritorneremo, perché un altro dei protagonisti di questo romanzo è appunto il jazz attraverso un personaggio che è un sassofonista. E prima abbiamo ascoltato Every Time We Say Goodbye di John Coltrane, interpretata da John Coltrane, perché in questo romanzo c'è una vera e propria colonna sonora, ma poi ci arriveremo. Adesso invece avevamo pensato, visto che abbiamo avvicinato il tema, alla possibilità di un'altra lettura. Sì. È un aspetto, proprio una cosa breve, riguardo a quell'aspetto hollywoodiano dei fallimenti. No? Spesso l'idea è, sì, racconta la storia di uno che fallisce, cade, inciampa, cade, ma poi risorge, si rialza e vince. Ecco, io non volevo una storia del genere, perché a volte nella vita cadi e stai caduto, non sempre c'è questo rovescio delle cose. No? E a un certo punto il mio protagonista, quando è proprietario di una ditta di arredamento interna che si trova a fallire, si trova in bancarotta, la cosa che più gli dà fastidio è questa retorica del fallimento come opportunità. E dice a un certo punto, no? La gente ci scherza sopra, hai fallito, beh, si chiude una porta e si apre un portone. Odio questa frase. E poi dice, stanotte ho passato ore su internet, cercavo qualcuno che mi spiegasse come reagire, che cosa devo fare. Tutti quei siti con la storia di Steve Jobs che è stato licenziato, di Einstein che a 4 anni non parlava, di Elvis a cui hanno detto di continuare a fare il camionista. Nessuno racconta i fallimenti veri. Dove sono le storie di quelli che sono tornati a guidare il camion? Ecco, era qualcosa del genere che volevo tentare di catturare. Infatti, leggendolo poi avevo pensato a una cosa, che in effetti questo imperativo di nascondere anche i propri piccoli o grandi fallimenti e questo obbligo a cui sembra spingerci il tempo in cui viviamo, di essere un po' protagonisti della nostra vita e di metterla in scena realmente o virtualmente nel modo più seducente possibile, sembra una... c'è sotto forse un po' una forzatura. E in questo romanzo emerge, Andrea non è solo un giallista, un autore di polizieschi che si limita così a divertirsi con una storia, un meccanismo narrativo con cui è capace di sedurre i lettori, di avvicinare i lettori, ma prova a raccontare qualcosa di più, a dire qualcosa di più di quei personaggi. E appunto, l'autore di polizieschi, che si dice pensato per il grande pubblico, non può rinunciare al tentativo di raccontare anche quella zona d'ombra che c'è dietro le apparenze. Sì, in effetti, quando ho cominciato a indagare sull'ufficio dei fallimenti, sulla bancarotta, su questa realtà segreta della bancarotta, no? Anche nel nostro paese, l'aspetto che più mi ha colpito è proprio quello che nel primo brano che ho letto veniva messo in evidenza, cioè la vergogna. Il fatto che ciò che dà più fastidio non è il fallire, ma il far sapere che c'è un fallimento in atto, no? Che in parte è piccolo, è tipico di una piccola realtà, e in parte anche di un atteggiamento mentale di salvare la faccia, salvare le apparenze. Ecco, ho trovato questa mossa psicologica molto, molto presente. Quasi quasi non farebbe niente fallire, purché si possa tenerlo nascosto. Ecco, c'è questa idea di nascondere la sofferenza, di nascondere il fallimento, è per questo che l'ufficio di esecuzione fallimenti, che invece lo regola, lo porta alla luce negli atti ufficiali, è qualcosa che può essere raggelante e tremendo. E in fondo per me è stata l'occasione per raccontare una parte della nostra società, anche chi di noi non fallisce, non finisce nel foglio ufficiale, non va in bancarotta, questa percezione di vergognarsi delle sconfitte, qualche volta nella vostra, nella vita si incontra, ecco, è qualcosa che abbiamo, ci vuole un certo allenamento per imparare a perdere. Io penso che i libri di Andrea ormai sono già un po', sono 7. Hanno comunque il merito di essere sempre diversi l'uno dall'altro. In ognuno di questi romanzi, dei suoi romanzi, che siano un po' più lunghi, un po' più brevi, cerca sempre di giocare un po' anche con le convenzioni del genere. Una cosa interessante, però, è che pur cambiando sempre di volta in volta, ci sono alcune note che ritornano. Ad esempio, anche in questo romanzo, il tema della contrapposizione e della contraddizione che c'è fra essere e apparire, appunto. Anche in un piccolo territorio, in un microcosmo come il nostro, che quindi può presentare molta materia narrativa per l'autore poliziesco. Appunto, come ti muovi in questo libro? Come provi a ritornare su questo tema, Andrea, raccontando il Ticino dalla Val di Blegno a Chiasso? Beh, ho deciso di, benché il romanzo racconti un episodio legato al mio investigatore Elia Contini, ho deciso di scegliere come protagonista un personaggio controverso, questo impresario, Mario Balmelli, che si trova a fallire su più fronti nella sua vita. Da un lato c'è la sua azienda di famiglia da più generazioni che si sta sgretolando, dall'altro lui ha sempre sognato di fare il musicista, ha inseguito questo sogno per tutta la vita e, proprio richiamato anche dal fallimento, a questo punto deve abbandonare definitivamente, come succede a volte a una certa età, quello che era uno dei suoi sogni di gioventù. E in più c'è anche un fallimento sentimentale di mezzo e quindi lui si trova a un certo punto in cortocircuito proprio riguardo a questa situazione. È un po' l'idea che di una competizione sociale che genera mostri, vittime e mostri, e che a volte questi due poli coincidono nella stessa persona, nello stesso personaggio. E so che quindi Andrea, appunto, aveva piacere di leggere una pagina in particolare. Sì, è una pagina in cui si vede proprio questo personaggio che dialoga con l'impiegata dell'ufficio fallimenti, che tenta di consolarlo, e quando stai fallendo tentano tutti di consolarti in qualche modo, ma non è facile. Fra Giubiasco e Magadino, come una pianura padana in miniatura, sta una fetta di terra piatta e grassa distesa fra le montagne. Anche se non sono luoghi poetici né turistici, a Mario piacevano, ma quella sera, davanti alle finestre buie che come a casa gli rinviavano la sua immagine, si sentì in gabbia. Pensò che sarebbe morto lì, tra i magazzini e le fattorie, imprigionato le strade diritte che correvano lungo gli argini e non portavano da nessuna parte. «Sei preoccupato per la bancarotta?» gli domandò Lisa. A Mario venne da ridere. «Puoi dirlo forte. Lei indicò i documenti sul tavolo. Non buttarti giù. Ne ho visti tanti che poi si riprendono. E io ne ho visti tanti che invece no». Perché se ne stava lì a discutere? Era assurdo. Quella ragazza lavorava per l'ufficio che stava gestendo il suo fallimento. «Una volta sono passato davanti alla casa di un mio compagno delle medie, cioè la casa dei suoi genitori. Lui si è bruciato il cervello con le droghe a 20 anni, ora ne dimostra 50 e gira per la città parlando da solo. Un altro compagno invece ha 2 bambini, organizza le feste di compleanno dei figli, applaude ai loro saggi musicali. Perché? Che cos'è successo a quei due che erano nella stessa classe?» Mario riprese fiato. Il silenzio intorno era irreale. Pareva che Lisa non respirasse nemmeno. Chi li vede mai? Tutti gli sbandati, quelli rimasti indietro, quelli che si sono schiantati, gli sfigati, quelli che a 15 o a 25 anni hanno avuto il loro momento di gloria. E adesso fanno finta che sia tutto normale. Guarda, il mondo è pieno di falliti che non si riprendono. In questo contesto ritorna poi il personaggio di Contini. E Andrea in questo libro poi si diverte anche a raccontare un po' la quotidianità di un detective, che in effetti è anche difficile magari immaginare per chi non frequenta ambienti di questo tipo. E qual è appunto la quotidianità di un detective ormai di mezza età in Ticino? Eh sì, questo non ho dato l'idea fino adesso che sia un romanzo allegro, ma in realtà paradossalmente, forse, visto che i temi affrontati sono anche cupi, è forse il romanzo mio più umoristico, perché come reazione, in fondo il senso dell'umorismo a un certo punto, in certe situazioni nella vita, è tutto ciò che ci rimane ed è una vera e propria lotta contro le sconfitte. E quindi il personaggio di Contini mi permette di far entrare anche un po' di senso dell'umorismo. Mi sono detto, non siamo a Los Angeles, nemmeno in Norvegia, per citare autori che prossimamente ascolteremo, nella Svizzera italiana, che fa un investigatore privato. E quindi ne ho incontrato qualcuno, ho cercato di parlare con loro e ho visto che, a parte quelli che lavorano per grandi agenzie, c'è anche una figura di investigatore privato un po' scalcagnato, di prossimità, e che si occupa veramente di tutto, anche delle questioni più minute. E quindi all'inizio ho messo in scena, possiamo proprio magari leggere l'incipit che vi fa vedere, ho messo in scena Elia Contini impegnato invece in una missione importante. È un inizio molto forte, ma adesso, visto che così teniamo alta la suspense. La belva stava in agguato nell'ombra. Davanti a lei, immobile, il detective. Passò un minuto, un altro, lentamente, finché il detective allungò una mano. Avanzò adagio, trattenendo il fiato. Osò appena sfiorare il pelo elettrico. Ma il gatto sussultò, mosse le orecchie. Alzò una palpebra, uno sguardo rotondo, giallastro, colmo di un infinito disprezzo e di un'infinita superiorità, disceso da secoli lontani, intriso di vertiginosa sapienza, si posò sull'investigatore. Allora l'investigatore parlò e disse: «Micio, Micio, Micio, Micio, vieni qui!» Il gatto si ritrasse con un brontolio di gola. Per un istante tutto sarebbe potuto accadere, una vittoria umana, felina o anche un pareggio. Il detective tuttavia dimostrò di essere un uomo d'azione. Con uno scatto acciuffò l'animale, poi uscì dal cespuglio. Alla luce del sole riconobbe il collare ed ebbe così la prova che dopo 2 ore di ricerca aveva ritrovato il gattino della signora Noemi. Ecco, insomma, questo... sono scene forti, lo so, spero che nessuno in sala se ne sia avuto a male. Ecco, l'investigatore si occupa anche di animali smarriti, e questa è una cosa vera, vi assicuro, quanti animali girano nelle nostre case e quanti si perdono. Poi la cosa divertente è far sì che in fondo questo Contini, che si occupi di queste piccole cose, di queste sciocchezze, si trovi invece a un certo punto in un caso per il quale lui è evidentemente inadeguato. Non è fatto per quei casi lì e quindi non sa bene cosa fare. In fondo anche questo va con il tema del mio romanzo, l'inadeguatezza, la situazione in cui tu sei lì, devi agire, ma sai che non sei adatto a quella situazione, però che fai? Scappi, continui, prova a fare quel che può. A un certo punto si dice in quest'altro brano, no? E qui, vedete, siamo alla fine, non vi rivelo niente, ma è una situazione in cui Contini è in crisi, è in difficoltà. A fregarlo, e riflette sul suo mestiere, dice: a fregarlo erano la velocità, il progresso, le valutazioni di controllo per il rinnovo della licenza, la ragnatela viscida dei social media, le evoluzioni tecnologiche, i business lunch e i meeting con clienti sempre più arroganti. Eccolo lì, Contini, con le sue manie, il suo stile di vita fuori moda, incapace di portare a buon fine l'unico caso importante. Ma non hai la pistola, chiese Francesca in un soffio. Non ho nemmeno il porto d'armi, lo sai. Qualche anno prima, infatti, l'ufficio competente ha decretato che a uno che fa l'investigatore in quel modo non serve il porto d'armi, ma poi quando è nella situazione drammatica mi permette di sviluppare questo fatto, mi permette di sviluppare degli effetti umoristici interessanti. Diciamo che Contini non si può definire un fallito, lui vive i suoi fallimenti quotidianamente da inadeguato, da marginale, si muove così... ai margini della nostra realtà, e la osserva poi magari anche in modo inaspettato e anche più lucido, ed è quello che poi gli serve nei momenti più importanti. E lui c'è un momento in cui oltretutto riflette molto Contini, andando in giro a fotografare volpi o attraversando il Ticino sulla sua auto scalcagnata. E, a un certo punto anche una disavventura automobilistica che sì. Molti in questa sala magari hanno già avuto, ma non voglio anticipare troppo, sono cose drammatiche, quindi. Sì, crea empatia, povero Contini. Sì, quello è un lato autobiografico, purtroppo. E a un certo punto riflette sulla verità e dice: ma se venisse meno anche la possibilità di arrivare al vero, a che servirebbe mettersi a fare l'investigatore? appunto, questo lo pensa l'investigatore privato, ma anche l'autore di Polizieschi si confronta con il problema del vero, dell'arrivare ad una verità. In fondo il lettore se l'aspetta a un certo punto che una verità ci sia. Ma questo obbligo del genere non può diventare una gabbia per l'autore. Scriverà un giorno Fazzioli un libro in cui alla fine non si sa chi è l'assassino. Sarebbe il vero fallimento per un investigatore. E questa è una domanda secondo me fondamentale per il genere poliziesco. I rapporti del genere poliziesco, da un lato con il bene e il male, ma con la verità. Il genere poliziesco è un genere che in qualche modo dialoga con il concetto di verità. È possibile arrivare a una verità? C'è. Quale? Gli investigatori sono persone che lottano per arrivare alla verità, ma quando arrivi alla verità non c'è una sorta di delusione. Secondo me tutto dipende dal concetto che si ha di vero. In fondo la verità, anche la verità che si presenta in un romanzo poliziesco, non è per forza assiomatica, non è per forza qualcosa di conclusivo, di definitivo, di delimitato. Può essere una forma di azione. In questo senso c'è molto jazz in questo romanzo. Spesso artisticamente nel jazz la verità si esprime come azione, come ricerca, ricerca improvvisativa. Io credo che anche nel poliziesco possa esserci una verità sotto forma di azione, di tensione non alla risoluzione del caso, ma alla comprensione delle ragioni profonde che hanno determinato quel caso. In fondo io non scrivo come autore di romanzi polizieschi per svelare misteri, ma per approfondirlo, questo mistero. E alla fine, sì, qualche colpevole salta fuori, qualcuno finisce la sua carriera omicida, qualcun altro finisce nei guai per altri motivi, ma penso che a guardar bene un buon romanzo poliziesco, anche quando apparentemente svela il mistero, lascia con più domande rispetto a quelle con cui è partito. È un approfondire il mistero, non uno svelarlo. Questo è il tipo di verità che mi interessa. E siamo arrivati, lo ha citato Andrea, siamo arrivati al jazz che attraversa questo romanzo. Ne fa da colonna sonora e ne crea anche le atmosfere, le tonalità. In un romanzo in cui c'è tanto, c'è umorismo, c'è un crimine, c'è una certa tensione anche noir e c'è il jazz, appunto. E allora avevamo pensato che forse per parlare di jazz c'era una pagina in particolare, sì, che poteva essere letta. Sì. Abbiamo anche la musica, penso, in questo, sì, caso, alla fine della lettura. Avete il doppio effetto. Magari prima la leggo e poi facciamo partire la musica, perché parlo proprio parlo di una canzone che è la canzone di questo romanzo, perché è la canzone preferita del protagonista. E in fondo, come combatti la sconfitta? Puoi fare grandi azioni, lottare, impegnarti, dibatterti. A volte, stare aggrappato alla vita quotidiana, avere il coraggio della quotidianità, è la maniera di lottare. Avere il coraggio di sedersi in poltrone e ascoltare la propria canzone preferita. È più di quanto sembri per lottare contro una situazione di crisi. Dicono, dice il capitolo 34, paura, dicono che Duke Ellington abbia scritto in a sentimental mood per sedare un litigio fra due ragazze. Pare che si sia messo al pianoforte e abbia lasciato parlare la musica. Mario non sapeva se fosse vero, ma di certo per lui quella canzone aveva un potere magico, soprattutto nella versione incisa da Ellington e Coltrane all'inizio degli anni 60. Era una medicina, un toccasana da prendere la sera dopo lo stress di una lunga giornata. Mario, sprofondato nella sua poltrona di pelle con un bicchiere di vino, sentiva placarsi il litigio anche dentro di lui. Sentiva che le due ragazze alla fine si sorridevano e si stringevano la mano, almeno fino al prossimo round. Il giro ipnotico di piano, i piatti sullo sfondo, le sette note fino a quel fa alto prolungato dal colore blu, perché stavolta non funzionava. E adesso forse possiamo sentirlo. Thank you. tra l'altro posso dire due peccato parlarci sopra, ma potete andare poi a casa e ascoltarla tutta. Adesso abbiamo lanciato l'idea, no? È una canzone che è fortissima per il personaggio. Tra l'altro è appunto suonata da Ellington e Coltrane. È interessante perché Ellington veniva visto come un musicista più tradizionale, no? E Coltrane invece rivoluzionario e sperimentatore. In questo brano sentite com'è tutto sommato abbastanza rivoluzionario, comunque non scontato il piano, no, percussivo di Ellington, e come invece sia dolcissimo e più che tradizionale Coltrane, per dirvi che a volte nel settore dell'arte le etichette che si appiccicano alle persone sono poi soltanto dei pretesti, no? Era la prima volta che suonavano insieme, l'unica anche, e guardate come subito si sono trovati in sintonia, nonostante per i critici appartengano a due mondi diversissimi. Però non voglio parlare troppo di jazz perché non siamo qui per questo, quindi lascio. Ma no, un po' interessante, perché infatti l'hai detto all'inizio che tu, anche tu, pratichi da un po' di tempo, sì, il sax, non si è mai fatto sentire, lo, no, fa sempre di nascosto. Vale. Ma... è una cosa intima. Però puoi raccontare che spazio ha nella tua vita la musica, il jazz, e come effettivamente poi in questo romanzo ti ha anche accompagnato nella scrittura. Sì, non vorrei, io è da anni che mi interesso di jazz, è da anni che provo a strimpellare, ma non ne avevo mai parlato nei romanzi, proprio perché i romanzi non devono raccontare di me, ma io devo nascondermi dietro i personaggi e raccontar di loro. Qui mi sembrava che si potesse parlare di jazz perché il jazz si adegua al contenuto, è una forma d'arte che implica lo sbaglio. Quando stai improvvisando non puoi pensare che tutto vada bene, e se sbagli che fai? Ti fermi, ricominci? No, vai avanti. Assumi lo sbaglio all'interno della tua improvvisazione. Come dice il mio maestro di sax, basta ripetere un errore 3 volte e diventa già una variante stilistica, no? O il pianista Thelonious Monk, che bisogna fare gli errori giusti. Ecco. Infatti avevo messo anche in epigrafe una frase di Lester Young che dice «Every style is the result of a handicap», ogni stile è il risultato di una mancanza. Ecco, spesso nel jazz c'è questo aspetto, no? Che le mancanze, i limiti, diventano un'arma in più, perché rendono la tua voce non più perfetta, più autentica. Ecco, questo mi sembrava che esprimesse quello che volevo dire anche nel romanzo. Magari leggo un brano che lo spiega meglio. A un certo punto, verso la fine, c'è proprio una riflessione fatta dal protagonista sul jazz e su che cosa rappresenti nella sua vita, e che forse spiega anche perché si trova in questo romanzo. Il jazz è la musica di chi si trova a terra e in qualche modo tenta di rialzarsi. È un eterno confronto con i limiti, con gli errori, anzi è la speranza che proprio negli errori si nasconda una possibilità di salvezza. Perciò Mario insisteva nell'ascoltare i suoi vecchi dischi in vinile sulla sua vecchia poltrona sfondata, senza preoccuparsi se il mondo andava più veloce di lui. Aveva imparato che un piccolo ritardo sulla pulsazione non è dannoso, anzi, insegna ad accogliere gli imprevisti. Django Reinhardt suonava la chitarra senza due dita, Bud Powell era minato dalla pazzia, Charlie Parker dalle dipendenze, Thelonious Monk doveva gestire la sua stranezza, perfino l'impeccabile Keith Jarrett nel 1996 era caduto in una sindrome da affaticamento cronico, e la musica stessa, il jazz, continuava a morire e a resuscitare a ogni generazione. E questo dice un po'... Prima ho accennato al fatto che Andrea è un autore che secondo me ha il merito di non accontentarsi delle cose buone fatte e dei lettori conquistati, ma ogni volta cerca di forzare un po' il genere poliziesco, giallo poliziesco. Nell'ultimo libro, romanzo più breve che aveva presentato, a metà storia si sapeva chi era l'assassino. In quello precedente, sulle truffe, il protagonista era un pensionato a cui succedeva molto poco e tutto era giocato sulle atmosfere. La storia andava avanti per atmosfere e gli intrighi non c'erano, erano veramente minimi. E questo mi ha fatto ricordare che presentando l'ultimo libro, lui mi aveva detto per fare dei gialli e dei polizieschi mica c'è bisogno di mettere in scena per forza dei truculenti serial killer. Vedete, però, il problema di far confidenza dei giornalisti, non dimenticano mai niente. Però lui... in effetti mi diceva così, ma era già al lavoro su questo libro dove c'è un serial killer. E quindi? Hai cambiato idea o c'è qualcos'altro? Sì, qui c'è un serial killer e forse ci sono più persone ammazzate di quante ce ne fossero negli ultimi romanzi. Ho scritto anche dei romanzi dove non muore nessuno. Non è quello che mi interessa nei polizieschi. A me interessa indagare proprio questa zona di confine tra bene e male, tra lecito e illecito. È vero che alla fine io cerco sempre di lavorare a più livelli. È giusto accontentare, secondo me, in maniera artigianale, con rispetto e con precisione, perché bisogna fare dei congegni precisi, come un orologiaio, accontentare chi vuole sapere come va a finire la storia, chi vuole una bella storia poliziesca. Però a me come lettore piacciono anche le storie poliziesche che non sono soltanto la trama e che lasciano anche una riflessione su alcuni temi o quantomeno un'atmosfera di alcuni luoghi, che è importante, l'analisi psicologica di alcune condizioni. Quindi cerco di lavorare a doppio livello. E certo, il serial killer sta su un livello, anche se poi alcuni aspetti psicologici legati a questo serial killer appartengono al discorso che voglio fare. Sicuramente io lavoro sul levare, cioè volutamente cerco di, come esercizio di stile, di dire meno possibile. In fondo io ho sempre come maestro, il mio giallista preferito, resta sempre il vecchio e grande Simenon, e diceva che l'essenziale è arrivare all'homme tout nu, a mettere a nudo l'anima dell'uomo e a farlo con meno parole possibile. E quindi lavoro sul levare e non mi indulgo sui dettagli della polizia scientifica e sugli aspetti più macabri e più violenti, perché la violenza più tremenda è quella che non si vede. Su questo seguo anche la lezione cinematografica di Hitchcock, no? E mi sembra che sia sempre meglio lasciare immaginare le cose. E quindi lavoro molto per sottrazione, rispetto anche alla mia prima stesura. C'era stato un esperto di letteratura di genere che aveva scritto che ogni buon libro di genere, da un lato, conferma tutto quello che è stato fatto prima e dall'altro fa evolvere quel genere con delle novità. In questo libro, però, poi ci sono un paio di personaggi che ogni tanto si divertono a parlare brevemente di letteratura. E allora ce n'è uno che confessa di trovare i gialli troppo sanguinolenti e quindi lo annoiano, non gli vanno bene. E c'è un altro che invece dice di non sopportare l'agonia dei colpi di scena. E a Fazioli, invece, cos'è che non va giù proprio nei gialli? Un po' ce l'hai detto. Sì, è difficile. Io ho cercato di mettere il mio piccolo dei colpi di scena nello stesso tempo in cui critico i colpi di scena, no? Tristi colpi di scena è il titolo di un capitolo in cui forse dovrebbe esserci un colpo di scena. Questo è perché approfitto anche, visto che il giallo è un genere molto scritto e molto frequentato, approfitto anche per fare un po' di riflessione ironica sul genere, scrivendo la storia. Una meta riflessione, direbbero gli esperti, no? Però è quasi naturale. E quindi, in effetti, i veri colpi di scena del finale non sono quelli più appariscenti. Sembrava che il colpevole fosse questo e invece è quest'altro. Sono quelli che silenziosamente avvengono nell'anima di Contini, che vede cambiare in bene la sua idea di giustizia fino a un certo punto, e però vede anche come possa sgretolarsi l'anima di un uomo, e quindi alla fine non sa nemmeno lui se essere contento o triste. I colpi di scena più invisibili sono quelli che mi interessano di più. Ha accennato giustamente all'ironia. Nelle cose dette da questi personaggi c'è dell'ironia, si divertono, ma c'è... io trovo che in questo romanzo ci sia molta leggerezza nel passare fra un'atmosfera all'altra. Una tonalità che ritorna spesso è appunto l'ironia, che in alcuni momenti assume quasi gli aspetti della satira sociale nel raccontare questa realtà in cui noi viviamo. E quindi avevamo pensato ad una lettura breve. Quando siete sull'orlo del fallimento, sapete, l'essenziale è avere gli amici giusti. E non sempre nella vita questo succede. Forse Mario Balmelli ha frequentato il proprietario della ditta che fallisce e che vede accadere questa serie di eventi sconvolgenti nella sua vita, forse ha frequentato un certo tipo di amici che non erano tanti amici quanto lui pensasse. Mario Balmelli, si dice, aveva amiche e amici colti. Alcuni abitavano in Svizzera, altri in Italia, la maggior parte aveva studiato all'estero e molti facevano lavori difficili da definire con una parola sola. Gente ragionevole, Contini se ne accorse subito. Sapevano usare l'ironia e la tolleranza e quando necessario riuscivano pure a commuoversi. Amavano parlare di libri, adoravano i libri e avevano piccole passioni inconfessabili che confessavano con piacere. La musica rock degli anni 70, i fumetti di Peanuts, i vignettisti francesi, una serie televisiva sugli zombie, gli allenatori dell'Inter o alla peggio i film di Tarantino. Credevano nelle grandi cause, senza dubbio, purché fossero universalmente condivise e socialmente impegnate. Sorridevano spesso, erano persone positive e qualche volta usavano parole come coccolare, visione, leggendario, small talking. Mario era davvero uno dei loro da riportare nel gruppo o era diventato una causa da sostenere? Difficile dirlo. Di sicuro restava uno che vendeva mobili. Ma non apparteneva allo stesso ceto sociale di Diana Perissin, detta Didi, che aveva invitato tutti a casa sua. Però Mario amava la musica, aveva frequentato Cineforum all'università e se qualcuno citava un poeta arabo, era abbastanza pronto da fingere di conoscerlo. Questa è la situazione affettiva in cui si trova. Ecco. Questo per dire appunto che Andrea si diverte anche in questo libro. Questo passaggio gliel'ho fatto leggere, non gliel'ho detto anche l'altra volta, gliel'ho fatto leggere perché so che lui mi aveva detto che era indeciso se metterlo nel romanzo e quindi alla fine poi si è risolto a metterlo, ad usare un po' di umorismo verso di noi in sostanza. Adesso, più che altro che poi come vedete sono passaggi, adesso io in fondo abbiamo letto i passaggi che non mandano direttamente avanti la storia, sono i passaggi di background, ecco, proprio per non svelarvi la storia a volte quando uno lavora sul levare come me, la decisione è proprio questo, lo lascio o lo tolgo, gran parte del lavoro di scrittura, se lasci tutto la lettura si fa noiosa, però queste sono le parti meno necessarie alla storia, ma forse le più, almeno per me, quando le trovo nei romanzi di altri, le più memorabili alla fine. Comunque è temerario Andrea Fazzoli, perché forse qualcuno, chi non l'ha letto il libro non lo sa, ma ha letto anche delle pagine che sono praticamente alla fine del libro. Quindi, tagli chirurgici. Adesso allora, per concludere, avremmo pensato a una serie di letture che ha scelto Andrea. Quelle che abbiamo fatto finora, molte le avevo scelte io, gliele avevo suggerite. Che con adesso serie invece, di letture si spaventano, ma noi in un'oretta molto, ce la portiamo in nostro. Questo era il finale, frasi qua e là. Il finale che piaceva all'autore. Quindi sono alcuni passaggi presi in vari momenti del libro che esprimono, diciamo, molti dei temi, appunto, come ho detto, delle atmosfere che ci sono nel libro. È come un trailer, un'immagine, ecco, di qua, un'immagine di là, e alla fine è un trailer letto ad alta voce, no? Più o meno, speriamo. E glielo facciamo leggere con un ultimo ascolto che è? Ah sì, prima citavo Keith Jarrett e la sua sindrome da faticamento eccessivo, Keith Jarrett è un pianista, no? Che se fosse qui non sopporterebbe di suonare e poi io leggo ad alta voce sopra la sua musica, anzi figuriamoci, però quando uscì da questa sindrome, il primo disco che fece dopo che non riusciva più a suonare, lui fin da ragazzino, genio della musica, non riusciva più a suonare, registrò un piccolo disco molto semplice, essenziale, a casa sua, The Melody at Night with You, no? Che è citato a un certo punto nel romanzo, lo ascolta anche Mario Valmelli, allora magari anche se lui se lo sapesse, leggere sopra le note Keith Jarrett può essere un bel modo per concludere, e ho scelto due o tre brani qua e là, se riesco a leggerli nell'ordine giusto, ecco. Un giro di note veloci e poi di nuovo quella melodia lenta, come quando di notte dalla macchina avvisti le luci colorate di un circo e poi però continui la tua strada, sempre diritto, dentro l'oscurità. I film non mostrano le giornate vuote dei detective. Anche quando si racconta la loro intimità, c'è sempre sullo sfondo un caso da risolvere. E la noia, pensava Contini, perché non si vede mai la noia? È la chiave del successo. Attraversare ore di noia e riconoscere finalmente quei 10 minuti in cui le cose cominciano ad accadere. Dicono che 9 casi su 10 è qualcuno che conosci. Chi? Assassino. Chi lo dice? Non so, i giornalisti. Dicono che è sempre il marito o qualcuno così. I giornalisti. Questo ne ha uccisi 3, tutti uomini. E il marito di chi? Ah, non so. Forse allora è la moglie. C'è una via facile e una via dolorosa. Chi è su quella facile crede di essere migliore, ma è soltanto cieco. Quando la polizia sbarrò tutte le porte, impedendo a chiunque di lasciare il locale, i musicisti stavano suonando di nuovo il tema di In a Sentimental Mood, romantico e struggente, bello come una nostalgia o come il desiderio di qualcosa che non si è mai avuto. Contini stesso, non era un fallito. Alla sua età non aveva un vero mestiere, una vera storia professionale, ma si arrabattava accettando casi che un'agenzia seria avrebbe subito respinto al mittente. Chi era lui? Per avere pietà di Mario. Ripensò ai nomi sulla lapide e ai desideri che quelle persone avevano rincorso per tutta la vita e qualche volta realizzato. Tutto era svanito come un miraggio, mentre chissà perché Contini aveva l'impressione che le sconfitte avessero più consistenza. Che cosa resta di te alla fine? Ciò che hai posseduto? O invece ciò che non hai mai avuto, ciò che hai sperato, o magari disperato. Ecco il genere di domande a cui di solito rispondeva senza parole, andando a camminare nei boschi. La fuga, il ritorno, la morte, il fallimento, l'umiliazione, lo scandalo, la paura, tutto era blu scuro, ma nel fondo buio del colore c'era la possibilità di un'apertura, di una pazienza provvista di sorprese. E allora ecco l'azzurro di un pensiero inaspettato, di una sintonia, quando nel blu apparivano anche la distratta caparbietà di Contini, gli stupori di Lisa, o semplicemente la consapevolezza che improvvisare, nella musica e fuori dalla musica, è l'arte di accettare ciò che accade, prima di reagire. Il trailer è... Grazie! Grazie mille a Claudio Lo Russo e grazie mille ad Andrea Fazioli. Anch'io faccio anch'io i miei ringraziamenti a Fabrizio Quadranti. Una delle mie primissime presentazioni in assoluto del mio primo romanzo avvenne proprio a Massagno, a Tutti i colori e gialli. Per me è anche un cerchio che si chiude e la possibilità di fare anche un esame di ciò che sono riuscito a fare. Ringrazio anche Claudio Lo Russo e in fondo anche tutte le persone che mi hanno aiutato con questo romanzo. Magari non l'ho detto qua e là, ma un romanzo è anche un lavoro di ricerca, quindi musicisti, esperti di fallimento. C'è dentro anche tutta una riflessione di cui non abbiamo parlato sul dumping salariale e su una truffa a danno dei lavoratori frontalieri, che è il congegno più poliziesco. E qui avevo parlato molto anche prima, lui ha citato la serata con mio padre, in realtà mi ero trovato molto con mio zio Fabrizio per analizzare queste cose. Mi fa piacere ricordarlo perché è morto da poco tempo e con lui avevo parlato proprio a lungo di questo romanzo che non ha potuto leggere.